GR Sport. Buongiorno da Dario Ricci. È quello di Adrian Mutu il nome che accende d'improvviso la campagna acquisti della Roma. Tra il romeno, la Fiorentina è tensione sul prolungamento del contratto e allora i giallorossi si sono fatti ufficialmente avanti. A Trigoria intanto i nuovi arrivati come l'ex atalantino Loria sognano in grande. Io posso garantire tutto l'impegno, sarà raddoppiato perché fino adesso magari giocando magari in squadre minori c'erano meno competizioni, qua però comunque è un impatto diverso, è un'avventura diversa rispetto alle altre dove c'è anche da giocare in Champions League. Con Pato e Ronaldinho partiti con la nazionale brasiliana per le Olimpiadi, il Milan stasera gioca la prima amichevole stagionale contro la Cremonese. Ancelotti coccola Kakà, oggetto dei desideri di Chelsea e Real Madrid. Io lo vedo felice, lo vedo sereno, lo vedo tranquillo, non lo vedo turbato da queste voci che girano intorno a lui, assolutamente. Anzi, lo vedo ancora più contento perché essere apprezzati, essere stimati, credo che è un segnale positivo. Sulle tracce di Quaresma e Montari, senza dimenticare Lampard, l'Inter è a caccia del colpo di mercato e le voci dei nuovi arrivi non turbano lo spogliatoio, come spiega il francese Dacour. Fa parte del nostro mestiere, anche noi prima siamo arrivati all'Inter, è stato così. E dico che noi abbiamo dei obiettivi importanti e se questi giocatori possano aiutare la squadra a vincere, sono benvenuti. Dal ritiro della Juventus tocca a Camoranesi rilanciare le ambizioni bianconere. Penso che le altre squadre sappiano che si ritroveranno di fronte la solita squadra combattente che lotterà per gli obiettivi importanti e non sarà facile da superare. Ecco. Farà ancora un passo che è quello di poter qualificarci per le coppe europee, che sarebbe diciamo il finire di quello che è stata la stagione scorsa, no? Ieri intanto ultimo test per la nazionale olimpica di Casiraghi verso i giochi di Pechino. A Pistoia 1-1 tra gli azzurri e la Romania in amichevole. In gol Giuseppe Rossi. E ora è il Tour de France. È il giorno, la tappa, la montagna, lo stadio naturale per eccellenza. Signore, oggi è il giorno dell'Alpe d'Huez, una delle vette più belle del ciclismo, non la più dura, ma certamente una delle più suggestive per via di quei tornanti che portano il nome dei grandi vincitori del passato, un po' per quel teatro naturale che permette agli spettatori di vedere gran parte della sua vita. È il Maracanã del ciclismo e da ieri sera che sono qui accampati. Sono già 500.000 provenienti da tutto il mondo per applaudire un tour che cerca di risalire dopo lo shock delle tre positività e teme che ce ne siano delle altre. È il giorno di chi questo tour lo vuole vincere, è il giorno anche di chi questo tour vuole dare un senso alla propria presenza. È una tappa che per molti varrà la maglia gialla, ma per molti può valere un'intera carriera. Si va all'Alpe d'Huez, dove il ciclismo è leggenda. Non ci sono storie. Per questo stadio, Gira 24, Sole 24 Ore e in Brun. Per l'atletica, meeting di Stoccolma in vista dei giochi di Pechino. Va da Safa Powell con 9 secondi 88 il duello sui 100 metri col primatista mondiale Bolt. Il cubano Robles trionfa ancora sui 110 ostacoli e nell'alto femminile ancora un successo per la croata Vlasic, salita fino a 2 metri e 2 centimetri. Chiudiamo con la Formula 1, testa e Jerez della Frontera per la Ferrari, dopo il deludente Gran Premio di Germania. Il collaudatore Luca Badoer a Rai Sport. Abbiamo fatto dei test orientati a capire questa cosa. Dal di fuori sembra che tutti hanno avuto più o meno i problemi che abbiamo avuto noi, tranne Hamilton. E abbiamo perso grip durante la gara, però stiamo ancora investigando. Vi ricordo l'appuntamento con A Tempo di Sport alle 14. Ancora una buona giornata da Dario Ricci.